tornando in diretta per questo 28 settembre 2023, giovedì, si riparte con la neonata rubrica Altri suoni al Breakfast Club. Per la prima volta abbiamo una voce in contributo per anticipare quello che è imminente apertura, l'ottava edizione dello Smart Life Festival, e quindi con grande piacere do il buongiorno al co-curatore Gabriele Pollastri. Buongiorno Gabriele, benvenuto. Buongiorno, buongiorno, grazie di avermi chiamato. Grazie della disponibilità e dell'orario mattiniero, quindi direi di procedere, vista che è la prima volta di questa nostra conversazione. Di che si tratta e cosa si propone lo Smart Life Festival, Gabriele? Allora, lo Smart Life Festival è un festival che si svolge a Modena ed è dedicato alla cultura digitale. È un festival che inaugura oggi, appunto giovedì 28 settembre, e per 4 giorni porterà una serie di riflessioni, di installazioni, di performance, di talk appunto in tutta la città, dedicate al tema dell'edizione di quest'anno, che è Generazioni. Il festival è un festival che non è nuovo in realtà, perché è giunto alla sua 8ª edizione. È un festival che nasce per volontà del Comune di Modena e di una serie, di una rete di istituzioni locali. Una delle caratteristiche più belle di questo festival, ci piace sempre ricordarlo, è proprio il fatto che tutta la città partecipa, e quindi le istituzioni culturali, appunto il Comune già citato, l'Università di Modena e Reggio Emilia, contribuiscono a costruire la programmazione del festival, che è una sorta di vero e proprio festival diffuso. Tra l'altro, una delle cose molto belle di questa edizione è che la rete di queste collaborazioni si sta via via ampliando, andando a coinvolgere numerosi soggetti anche extraterritoriali. Ne cito solo 3 per fare appunto un esempio breve: avremo lo IUAV, l'Università di Venezia, avremo IED Milano, avremo IED Firenze, e quindi è un festival che sta raccogliendo appunto adesioni in continua crescita. Io ne sono rimasto colpito dalla presenza di Karsten Nicolai Alvanoto, artista che seguo da tempo in quanto appassionato di micro glitch, elettronica, ambient, ma per quanto riguarda poi l'aspetto tecnico digitale sono un dinosauro troglodite analfabeta, e chi più ne ha più ne metta. E allora, c'è spazio anche per chi è nelle mie condizioni dal punto di vista tecnologico allo Smart Life Festival? Assolutamente sì, anzi direi che c'è spazio innanzitutto per questo tipo di condizioni, perché quello che ci piace fare da alcuni anni a questa parte è proprio invitare artisti di questo livello. Quest'anno appunto abbiamo Karsten Nicolai Alvanoto, lo scorso anno abbiamo avuto Davide Quaiola, l'anno precedente abbiamo avuto Max Casacci dei Subsonica, sì, con un interessante progetto di musica elettronica. Ecco, quello che vogliamo fare è proprio, attraverso le performance, l'arte di queste figure importanti, arrivare il più possibile alle persone, soprattutto non solo attraverso la performance, ma anche attraverso quelli che chiamiamo momenti divulgativi. E infatti anche in questo caso la performance di questa sera, che sarà alle 21 al Teatro Storchi, sarà anticipata da un talk alle ore 19, in cui Alvanoto dialogherà con Dami Rivic, giornalista di Rolling Stone Italia, Soundwall, che tutti un po' conosciamo. Anche Blow Up lo seguo, Dami Rivic, altra voce che volevo citare, grazie che mi hai anticipato Gabriele, figura importante per la critica musicale. Bel dialogo, scusa se ti ho interrotto. Assolutamente sì, quello che ci auguriamo appunto è che Damir ci aiuti ad entrare un po' meglio, a farci capire un po' meglio quello che è il mondo, direi a tutti gli effetti, generativo di Alvanoto, perché parlando di generazioni, diciamo che questo artista, mi piace ricordarlo, è frutto di una collaborazione, la sua presenza a Smart Life Festival con Fondazione Modena Arti Visive. Infatti Karsten Nicolai, nella sua veste appunto di nome biografico, è presente a Modena anche con una mostra alla Palazzina dei Giardini curata da Lorenzo Respi. Per Smav, appunto, è un artista assolutamente generativo, quindi non ci sembrava avere una migliore occasione per poterlo invitare, ecco. Certo, le collaborazioni di Alvanoto, le più prestigiose con Ryoki Ikeda, per quanto riguarda una collaborazione tra l'ambient, il noise e il glitch di Alvanoto, e anche con il compianto Sakamoto. Tra l'altro ho selezionato un brano qua per interballare la nostra conversazione. Come si comincia, Gabriele? Allora, iniziamo questa mattina alle ore 10 con un talk che è dedicato al mondo dell'educazione e al mondo della tecnologia. È un talk realizzato dal Festival in collaborazione con After Futuri Digitali, Regione Emilia-Romagna e anche Unimor, Università di Modena e Reggio Emilia. Ci sarà anche l'assessore all'agenda digitale della Regione Emilia-Romagna, appunto, e parleremo di come il rapporto tra nuove generazioni e famiglie e genitori può essere sviluppato al meglio nella gestione di quelle che sono le tecnologie, anche nell'ottica appunto della crescita delle nuove generazioni e di una loro partecipazione attiva alla vita sociale, alla vita di comunità. È molto vario il festival, nel senso che appunto andiamo da Alvanoto a queste tematiche. Quello che abbiamo voluto fare, proprio per essere il più divulgativi possibile, è stato individuare dei topic vicini alla vita di ciascuno, e quindi smart art, smart food, smart tech, smart school, per poter appunto affrontare il tema in tutte le sue declinazioni. Possiamo ascoltare 2 minuti di musica Alvanoto e Sakamoto in questo disco che per me è un capolavoro, poi tornare in diretta per parlare delle sedi del festival. Posso rubare 2 minuti del suo tempo? Molto volentieri. Grazie, a tra poco. Altri suoni, la rubrica che alza un po' l'asticella con musiche inconsuete. State ascoltando Alvanoto, Carsten Nicolai con Sakamoto, la sostituzione della ritmica, la scomposizione con questi micro beat con dei glitch che vanno ad accompagnare le melodie di un pianismo quanto mai raffinato, un disco che è stato uno dei pilastri di queste realtà musicali. Vorrei citare in questa sede una label molto importante per cui Alvanoto ha composto, la Mil Plateau, di cui parleremo sempre nel nostro spazio di altri suoni. È bella la collaborazione con queste rassegne, avremo anche la collaborazione con Angelica. Ora abbiamo Smart Life Festival e con noi il co-curatore Gabriele Pollastri. È rimasto in linea Gabriele? Certo, ecco, siamo qui. Ecco, ok, allora direi di concludere. Ho ascoltato nostra... con grande piacere. Ah, è stupendo, secondo me è veramente è la musica che porta un livello di ascolto a un'eccellenza, poi adesso non ne voglio decantare le lodi perché poi mi arrivano le critiche, tu hai troppo entusiasmo, ma tante volte capitano. E quindi le sedi del festival, di Smart Life Festival. Allora, il festival si svolge a Modena, il main stage del festival è la sede della Fondazione Collegio San Carlo, che è in pieno centro storico appunto. Ricordiamo il Teatro Storchi, che ospiterà questa sera l'opening appunto ufficiale della manifestazione con il talk e alle 21 la performance appunto di Alvanoto, l'Università di Modena e Reggio Emilia, Fondazione di Modena, FEM, numerosi altri spazi, Laboratorio Aperto Modena, dove avremo un interessantissimo progetto dedicato alle nuove frontiere dell'editoria, che raccoglie oltre una una trentina di espositori, curatori, editori legati al mondo appunto dell'editoria indipendente, per riflettere in dialogo con artisti e filosofi su quello che può essere oggi nel mondo digitale il futuro anche dell'editoria. Quindi tantissime sedi nel centro storico di Modena. Bene, e il festival avrà durata fino al? Fino a domenica, chiudiamo domenica 1 ottobre con la presenza, il tema sarà Smart Fashion, avremo Marina Spadafora, Fair Fashion Activist, e Matteo Ward, anche lui molto impegnato, appunto una voce molto interessante sui temi delle nuove tecnologie applicate all'ambito del fashion nell'ottica della sostenibilità, e poi una bellissima performance degli studenti, torniamo alle scuole di cui parlavamo all'inizio, delle scuole modenesi, che in una delle piazze centrali della città appunto ci proporranno una loro performance ideata da loro, progettata da loro, con abiti tecnologici in Piazza Roma alle 21. Grazie per la disponibilità, non mi resta che augurare un buon festival, la Smart Life Festival, e inaugurare questa collaborazione con la rubrica Altri Suoni. Grazie Gabriele e buona giornata. Grazie. Grazie a voi, vi aspettiamo. A presto. A presto. Così Altri Suoni per oggi, giovedì 28 settembre. Riprendiamo la nostra sigla, che è Gian Jalinek, il brano Silver Circle per la Touch Record. Altri Suoni ritorna anche per seguire realtà sempre con parallelismi musicali di genere inconsueto, per così dire, ma ci auguriamo sempre di qualità per alzare l'asticella dell'ascolto. A breve la pubblicità, poi si rientra con la rubrica In Mostra, come ogni giovedì, protagonista la grande Tina Modotti a Palazzo Roverella. A tra poco, buon ascolto.